Allora, possiamo finalmente affrontare le questioni del rapporto tra parola e immagine. Storicamente, dal punto di vista delle testimonianze che noi abbiamo, l'attività umana della parola precede di gran lunga quella della produzione di immagini. Però noi non possiamo essere sicuri che le cose stiano davvero così. Possiamo soltanto supporlo, perché in realtà le prime immagini prodotte dagli esseri umani di cui abbiamo conoscenza sono le pitture, le cosiddette pitture rupestri, che in realtà sono dipinte su pareti di grotte, del tardo paleolitico, del pieno paleolitico, insomma, che risalgono a un'età compresa tra i 18 e i 33-34 mila anni fa, e di cui le più famose sono quelle che stanno nelle grotte di Altamira e quelle di Lascaux, sulla costa tra la Francia e la Spagna, Ecco, naturalmente nessuno esclude che ci possono essere state delle immagini anche prima di queste, cioè non possiamo essere sicuri che queste siano davvero le prime, sono le prime di cui noi abbiamo notizia. È vero però che un breve ragionamento sulla natura probabilmente magico-religiosa di queste immagini, cioè sul fatto che probabilmente erano delle immagini che accompagnavano dei riti di propiziazione della caccia, come quello di Lascaux, che mostrano il bisonte, e alcuni pomini attorno ad esso, che armati di lance e di zagaglie, che lo cacciano. Quindi questo, diciamo, carattere farebbe supporre che come dire, ci sia intorno a queste immagini lo sviluppo di un immaginario che potrebbe avere richiesto un certo tempo negli esseri umani per svilupparsi, quindi può essere che ce ne siano state di prima, può essere che queste immagini siano quelle che del tutto casualmente sono le prime giunte sino a noi, ma se anche ce ne fossero altre è plausibile supporre che non sarebbero tantissimo precedenti, che non precederebbero di così tanto quelle di Lascaux e di Altamira. L'unica cosa di cui siamo ragionevolmente sicuri è che tra le attività umane, il linguaggio e le prime forme di tecnica vanno di pari passo. Addirittura probabilmente è possibile che la tecnica, quando parliamo di tecnica in queste operazioni parliamo semplicemente di scheggiatura della pietra, che per centinaia di migliaia, per decine di migliaia di anni è rimasta l'unica, o perlomeno la forma principale di espressione tecnica degli esseri umani. E se dobbiamo tenere conto dei risultati, delle prove, addirittura la tecnica precede gli esseri umani, cioè ci sono prove di attività tecniche in specie umanoidi, non è Homo sapiens il primo che ha usato la tecnica, ma già gli australopitechi, quindi parliamo di milioni di anni fa, non di 200.000 o 300.000 anni fa. Se pensiamo che un'altra delle, che non si può chiamare propriamente rivoluzione tecnica, ma comunque è un raffinamento della tecnica umana, e cioè la comparsa del fuoco. La comparsa del fuoco è parecchio più tarda della nascita di Homo sapiens, anche qui non siamo sicurissimi, ma insomma le prime prove, le prime evidenze, le prime testimonianze che noi abbiamo dell'uso del fuoco da parte di esseri umani non risalgono a più di 50.000 o 60.000 anni fa, quindi è del tutto normale che ci siano state una serie di attività che si sono sviluppate nel tempo. Può essere che la produzione di immagini sia una di queste e che sia in qualche maniera una delle ultime, perché richiede lo sviluppo di una complessità di pensiero, richiede soprattutto una modalità di rappresentazione totalmente diversa da quella linguistica. Nella nascita del linguaggio è, come dire, è insomma dubbio, tutte le ricostruzioni della storia del linguaggio che ipotizzano che il linguaggio sia nato negli esseri umani dapprima a scopi comunicativi di, diciamo, informazioni, per comunicare informazioni semplici, diciamo, come è più o meno anche in molti altri animali, no? Se pensate alla complicatezza per esempio, del volo, diciamo, ritualizzato con cui alcune api operaie comunicano alle loro compagne la direzione e addirittura la distanza media della fonte di cibo più vicina, no? Sono le api esploratrici che vanno, poi tornano e si mettono a fare davanti all'alveare una danza, un volo complicato veramente, perché descrivono una specie di otto, il cui asse indica la direzione in cui si trova il cibo. E approssimativamente la lunghezza, la dimensione dell'otto è più o meno proporzionale alla distanza alla quale si trova il cibo. È un sistema di comunicazione molto complicato. Non ha niente a che vedere con il linguaggio, perché non è un sistema di comunicazione fatto come linguaggio, però quindi è totalmente determinato geneticamente, non c'è nessuna creatività, le api non si possono inventare la danza che quando fanno è sempre quella e la fanno. Per analogia alcuni pensano, dicono, vabbè, insomma, il linguaggio sarà stato prima, sarà stata questa cosa, noi abbiamo questo maledetto modo di pensare positivista che ci forza in continuazione, perché pensiamo sempre che le cose vadano da quelle che noi consideriamo le più semplici alle più complesse, e quindi che anche storicamente le cose siano andate così. Non è affatto detto che siano andate così, cioè. Il linguaggio è sino dall'inizio un sistema di comunicazione così complicato che fino dall'inizio all'interno del linguaggio c'è già una dimensione che eccede la pura e semplice comunicazione di informazioni elementari. Quindi nel linguaggio c'è già una, fino dall'inizio, una potenzialità che non è soltanto comunicativa, insomma, che oltre ad essere comunicativa è, diciamo, espressiva. Ma questo deriva dal fatto che il linguaggio è frutto di una, della, diciamo, evoluzione di un organo terribilmente complicato come il cervello dei mammiferi e il cervello dei primati, e nell'uomo dell'apparizione di questa nuova, di queste nuove strutture cerebrali tipiche, scusate, tipiche solo di Homo sapiens, che sono la neocortese. Allora, sta di fatto che per tutto un periodo, per la gran parte della storia dell'umanità, la come dire, le parole e le immagini si presentano certamente in condizioni intrecciate, se le parlo di esseri umani, sono sia parole che immagini, ma hanno funzioni e regole, modi di funzionamento totalmente differenti, totalmente differenti. E non è difficile capire il perché. Sia la parola che l'immagine sono strumenti o modalità, diciamo così, di rappresentazione, cioè di raddoppiamento del mondo. Quando dico mondo, non intendo dire soltanto evidentemente il mondo fisico, la, diciamo, realtà fisica che sta al di fuori dell'uomo, ma tutto quell'insieme di relazioni tra esseri umani che strutturano il mondo, no? Il mondo cos'è? È una, non c'è mondo se non ci sono, noi adesso vediamo le città, se non ci sono delle azioni che io faccio, che noi esseri umani facciamo all'interno di questi ambienti artificiali che ci siamo costruiti, all'interno delle relazioni, anch'esse totalmente artificiali, che instauriamo con gli altri. Ora, questo insieme di cose che potrebbero, noi pensiamo in qualche maniera, esistere anche senza il linguaggio, in realtà non possono esistere senza il linguaggio. Quindi la complessità della società umana, complessità anche quando è semplice, anche quando ci sono semplici gruppi di cacciatori e di raccoglitori, la complessità della società umana è è impensabile senza il linguaggio. E quindi è, come dire, sino dall'inizio, l'attività relazionale umana che definisce e garantisce l'esistenza del mondo e ne struttura il funzionamento, prevede sino dall'inizio una forma di rappresentazione, di raddoppiamento. Non c'è non c'è società umana senza rappresentazione. Nel momento in cui io istituisco, cioè è in questo senso che è, diciamo, stupida l'ipotesi che uno strumento di una attività così complessa come il linguaggio sia servita soltanto per dire guarda che il cibo è di là, guarda che arriva uno che ci vuole fare del male, non toccare la mia compagna che si spacca la testa. Queste qui sono tutte cose che le altre specie animali fanno senza alcun bisogno di linguaggio, perché l'essere umano avrebbe dovuto complicarsi la vita e costruire una cosa così complessa come il linguaggio soltanto per dire queste cose. È evidente che sino dalla sua costituzione il linguaggio è un'attività di raddoppiamento del mondo, di rappresentazione, non solo, ma che il mondo è impensabile senza il proprio raddoppiamento istituzionale. È soltanto attraverso questa nuova dimensione totalmente umana, che ovviamente sviluppa alcune cose che embrionalmente altre specie animali vicine a noi hanno, ma che l'essere umano ha portato a una dimensione impensabile in altre specie animali. Quindi questa attività, diciamo, è essa fino dall'inizio responsabile della... E quindi in qualche maniera ogni attività umana è caratterizzata da questa dimensione rappresentativa, che vuol dire di raddoppiamento. C'è qualche cosa e io ne parlo mentre la faccio, io la commento mentre la faccio. Per capirne meglio i... No, non solo per capirne meglio, perché è questo raddoppiamento è insito in quella attività. E leggere un capo tribù, come fanno anche diciamo società che noi consideriamo terribilmente primitivo, è già una operazione complessa. Il rapporto tra un gruppo di cacciatori e raccoglitori e, diciamo, le sue figure pubbliche, diciamo, di rappresentazione, non diciamo rappresentanza anche per parlare della politica, no? Che cos'è il Parlamento, che cosa sono le cose sviluppate se non una specie di raddoppiamento della società, no? di micro società in piccolo, nella quale per una serie di motivi si discutono e si prendono decisioni che sarebbe impossibile prendere tutti quanti insieme, anche nelle forme di democrazia più, diciamo, radicale come quella ateniese del V secolo e del IV secolo. C'era certamente la assemblea delle popolazioni, delle ex tribù, insomma, delle varie, che prendeva le decisioni parlamentari, però poi c'erano delle cariche pubbliche, c'erano delle persone che eseguivano queste cose, insomma, quindi c'era una dimensione. La rappresentazione è la dimensione ineliminabile da ogni attività umana. Le attività umane sono attività che già di per sé qualsiasi cosa, qualsiasi dimensione rappresentano, cioè istituiscono dimensioni, diciamo, di raddoppiamento del mondo che sono insite nella stessa costituzione del mondo. Il mondo, il concetto di mondo in quanto tale, l'essere umano è l'unico animale che ha un mondo, tutti gli altri hanno un ambiente, cioè qualche cosa di dato e che in linea generale subiscono totalmente. L'unico essere vivente che non subisce il proprio ambiente ma lo trasforma sino a fare un mondo siamo noi. E questo lo facciamo prevalentemente e fondamentalmente tramite il linguaggio. Allora, ma torniamo alla questione del... Dove sta la differenza fondamentale tra il raddoppiamento o la rappresentazione linguistica e quella iconica? Sta nel carattere che vi ho detto, in una delle caratteristiche che vi ho indicato, su cui ho insistito così tanto, non a caso, nelle prime lezioni, e cioè sta nel fatto che nel linguaggio c'è una caratteristica arbitraria, di arbitrarietà, che è quello che lo rende ricco. Non c'è nessuna relazione sensoriale o fisica che lega la produzione linguistica che regge una data situazione a quella situazione. Quando incontro uno che non mi piace, cioè i coglioni girati, gli dico ti spacco la faccia, nelle parole ti spacco la faccia non c'è alcuna relazione col gesto fisico di stringere la mano a pugno e calarla con forza la maggiore possibile sul setto nasale di quello che mi sta antipatico o che mi ha fatto sgambetto, che mi ha fatto uno sgarbo, è totalmente arbitrario e infatti si dice in modi diversi in ogni lingua e però l'azione è sempre la stessa, da quella semplicissima di ringraziare uno perché ha fatto qualcosa, quando dico grazie, quando dico ti spacco la faccia, quando dico che freddo che fa oggi, qualsiasi cosa dico, non c'è alcun rapporto, è totalmente arbitrario il carattere del, come dire, linguaggio. Se devo fare un rito di propiziazione perché so che domani vado ad ammazzare, cerco di ammazzare un bisonte di quella mandria che ho visto là e cazzo so che è difficilino, dobbiamo essere in 6 o 7 cacciatori, ma chissà se andrà bene, magari quindi la sera prima mi metto lì e magari, questa è l'ipotesi che è stata fatta sulla pittura rupestre del bisonte della grotta di Lascaux, non c'è nessuna relazione fisica tra le parole che pronuncio o anche certi gesti che faccio, nei gesti che faccio probabilmente sì, perché probabilmente mimo, mimerò, farò una rappresentazione imitativa dei gesti che farò domani nella caccia o che ho fatto prima se il rito è di ringraziamento invece che di propiziazione, insomma. In ogni altra cosa c'è una attività di somiglianza, di contiguità fisica tra certe azioni e certe cose. Nel caso del, diciamo, linguaggio, assolutamente no. Quindi l'arbitrarietà della rappresentazione linguistica contrasta invece con la similarità, con la imitazione, come dire, fisica, realistica, tra mille, diciamo, virgolette, dell'immagine. Se traccio dei segni sulla parete di una caverna e voglio indicare ai miei compagni di tribù che quei segni mi devono ricordare un bisonte, devo disporli in modo che visti assomiglino a un bisonte, giusto? Mentre non c'è alcun motivo che la parola bisonte assomigli a un bisonte, la parola bisonte non assomiglia a nessun bisonte, no? Invece l'immagine del bisonte deve. Questo vale anche quando si tratta poi di immagini astratte, eccetera, eccetera. L'immagine ha sempre in qualche modo una referenzialità, deve rimandare per somiglianza o per contrasto, deve avere una relazione sensibile di, che i nostri sensi possano cogliere, visiva o uditiva, con il fenomeno che si intende rappresentare, con ciò che si intende rappresentare. Quindi, mentre la rappresentazione linguistica è totalmente e completamente arbitraria, la rappresentazione iconica non ha questo carattere di arbitrarietà. Quindi, la prima conseguenza, che però mi rendo conto che potrà suonare ideologica alle vostre orecchie, sia di abitanti dell'Occidente che vengono dopo la rivoluzione delle avanguardie storiche, sia di persone che utilizzano lo strumento del computer. Quindi vi suonerà eretico quello che vi dico adesso, ma la rappresentazione linguistica è più libera di quella iconica. La rappresentazione per immagini ha dei vincoli ulteriori, maggiori, più forti che sono i vincoli della, virgolette, somiglianza in qualche modo, no? In qualche modo, intesa nel senso più lato possibile. Adesso, se voi pensate alla pubblicità che c'è in giro adesso sul film Videocrazia, che viene distribuito insieme con alcuni giornali, con l'Espresso di Ciao Repubblica, che è una pubblicità che dice: l'immagine è potere, la TV coincide con il potere, questo lo sappiamo noi italiani meglio di ogni altro popolo in questo momento, perché abbiamo a capo del nostro governo la persona che ha maggior potere televisivo e ha costruito il suo potere politico esattamente sul potere televisivo che aveva. E quindi potremmo pensare, ma come? Allora, dice, non è il linguaggio, dice, è più importante, conta di più, pesa di più l'immagine. Effettivamente nel momento in cui, da quando è comparsa, tutta questa, chiamiamola pure gerarchia, cioè questa differenza così forte tra il linguaggio e, diciamo, l'immagine, e questa fondamentale e strutturale gerarchia di strutturazione, cioè di strumenti per strutturare il nostro rapporto con il reale, è, come dire, esistita sino a che gli strumenti di produzione dell'immagine erano strumenti artigianali e fortemente dipendenti dalla intenzionalità umana. È chiaro quello che ho detto? No. Questa cosa c'è stata sino a che per produrre immagini bisognava mettersi lì una singola persona o più persone, avere in testa un progetto molto complesso di rapporto tra ciò che avevo visto o immaginavo di poter avere visto e ciò che producevo come replica, raddoppiamento, rappresentazione di questa cosa, cioè sino a che gli strumenti per fare immagini sono state tavolozze e scalpelli, cioè sino a che l'unico modo di produrre immagini è stato la pittura o il disegno. Per fare un disegno, per fare una pittura, mi devo mettere lì, devo procurarmi una serie ovviamente di attrezzi tecnici, è una tecnica, non è una roba che nasce, quindi mi devo mettere lì, trovare delle superfici adatte, che possono essere o dei muri belli lisci, opportunamente trattati, o delle tele opportunamente trattate, prendere un pennello, mescolare tutti i colori, fare un quadro, dipingere. Oppure prendere un qualche cosa che lascia un segno su una di queste superfici e fare un disegno. Oppure prendere un mazzapicchio in mano e battere su un blocco di marmo fino a che il blocco di marmo non assume una certa figura. Tutte queste sono tecniche di immagini lunghe, costose e, come ho detto, legate a una intenzionalità. Devo aver pensato io qualche cosa, io pittore o scultore, eccetera, mi devo essere messo lì e devo averla. Quando cambiano le cose, quando viene inventata, quando viene inventato un dispositivo per la produzione di immagini che prescinde da tutto questo, che meccanicamente e immediatamente, nel giro di alcuni minuti prima, poi nel giro di pochi secondi, poi nel giro di frazioni infinitesimali più piccole di, diciamo, secondi, replica su una su un supporto sensibile attraverso certi processi chimici, da prima, perché la forza nasce chimica, ciò che sta di fronte a questo dispositivo, cioè la fotografia altera totalmente, cambialo, e quando si trovano delle tecniche fotografiche in grado di stampare su della carta più o meno normale o più o meno comune il risultato di queste foto, cosa che arriva molti decenni dopo l'invenzione della colorimetrografia, quindi quando nascono i cosiddetti rotocalchi, le riviste come le conosciamo noi oggi, che non c'erano prima, i giornali nascono come i libri, cioè sono solo più grandi ma sono colonne di piombo, di parole, diciamo stampate, al massimo qualche disegnino fatto a mano, a xilografia. Quando è possibile stampare le foto, e quindi cambiano totalmente i giornali, c'è una... E quando nasce prima il cinema e poi la televisione, quindi ho la possibilità di replicare non solo delle istantanee assolutamente irreali e molto poco, voi sapete che la fotografia è uno strumento che noi supponiamo realistico, ma non è realistico per un cazzo, non sono mai esistite le fotografie. Le fotografie fissano fissano uno stato del mondo in condizioni tali che i nostri occhi non possono vedere, perché noi abbiamo una cosa che si spiega, o che comunque che per cui il nostro occhio non è una macchina fotografica, perché le immagini persistono sulla nostra retina per un decimo di secondo. E questo ci frega, questo è quello che ci consente di andare al cinema e di credere che le figurine sullo schermo si muovano, mentre non si muovono per nulla. Sono 25 figurine attaccate una in seguito all'altra, che la nostra modalità percettiva si apporta. Ma se questo lo tengo sepolto, probabilmente non lo vista un po'. E allora, cosa stavo dicendo? Sì. L'arrivo, l'invenzione di una tecnica di generazione dell'immagine completamente nuova come la fotografia automatizzabile, meccanizzabile, il che non esclude che ci siano. C'è evidentemente, se non ci fosse una parte di intenzionalità anche nella produzione di immagini fotografiche, non ci sarebbero i fotografi, non ci sarebbe la differenza tra lo stile di un col fotografo e l'altro, ma l'intenzionalità, i modi attraverso i quali si realizza l'intenzione progettuale di un fotografo sono molto diversi da quelli attraverso cui si realizza l'intenzione progettuale di un pittore. Sono totalmente differenti. È a quel punto che non è stato sbagliato definire il Novecento come il secolo dell'immagine, perché effettivamente con questa invenzione, è vero che la foto è dell'Ottocento, ma poi ci ha messo un secolo più o meno, il cinema è del 1895, il rotocalco del 1800, 10 anni prima, un poco meno, la radio è degli anni 20 e la televisione degli anni 40, tutte le conseguenze, tutti gli sviluppi, però all'origine c'è la fotografia, il fatto che le cose cambino, che ci sia l'immagine magnetica invece che chimica, tutto vero, tutto giusto, però il filone nasce dalla foto, nasce dalla fotografia. Quindi è stata la fotografia e i suoi sviluppi che hanno contribuito ad alterare, e tutte le riflessioni sociologiche, filosofiche, grammaticali fatte sul tema dell'immagine nel corso del Novecento hanno dovuto tengono conto di questa cosa. Se in qualche maniera, detto in modo molto rozzo, non me la scrivete mai nelle vostre tesi, ma se si può dire che c'era una gerarchia di primato della parola sull'immagine per tutta la storia dell'umanità, questa gerarchia, se non si rovescia completamente, viene meno o viene messa in crisi nel momento in cui compaiono delle forme di generazione più o meno automatica o meccanizzabile di immagini come quelle della fotografia, del cinema e della televisione, più o meno successivamente. Questo lungo preambolo ci serviva per introdurre quindi quello che scrive Wilhelm Flusser, di cui volevo leggervi qualche paginetta e poi la commentiamo. Allora, questo tema del rapporto tra cultura e immagine in questo libro di Flusser torna in diversi saggi. Siccome ve lo dovete leggere, vi tocca, però vi va bene perché ovviamente siccome sono saggi differenti, ovviamente soprattutto nella seconda parte che è stata titolata dagli editori italiani come una rivoluzione delle immagini. Però ci sono diversi saggi. Allora, io vorrei cominciare leggendovi alcune pagine del saggio che si chiama Lo status delle immagini, perché poi Flusser, però non mi lascio qua che parla delle immagini qui, perché è qua che più o meno Flusser, sia in questo che nell'altro libro disponibile in italiano su di lui, in realtà poi dà una definizione di queste immagini, cioè delle immagini che lui chiama tecniche. Questo saggio che ci leggiamo oggi per pezzettini si chiama Lo status delle immagini, è uscito nel 1991. Dice Flusser, nell'ipotesi che si cercasse di spiegare a un uomo di Lascaux e a uno della Firenze Medicea che cosa vuol dire? Sì, Medici, sapete tutto. Non vi devo spiegare chi sono i medici, non sono i dottori. Nell'ipotesi che si cercasse di spiegare a un uomo di Lascaux e a uno della Firenze Medicea che molte tra le immagini odierne sono immagini che si muovono, potrebbero facilmente insorgere degli equivoci. L'uomo di Lascaux, quindi paleolitico 30.000 anni fa, penserebbe che queste immagini migrino da caverna a caverna e il fiorentino sosterrebbe che anche le immagini del suo tempo si muovevano, da quando si cominciò a dipingere su tele anziché sui muri delle stanze. Bisognerebbe perciò aggiungere che le cornici delle immagini attuali sono rimaste quasi altrettanto immobili di quelle di un tempo e che in questo senso letterale il loro status non è mutato considerevolmente. Continuano a essere Gegenstände, cose che ci stanno davanti. Allora qua bisogna il riferimento di Flusser, se non sapete, è stato detto di voi. Allora, la parola oggetto, devo fare una riflessione di qui, la parola oggetto è più o meno lo stesso vale per l'inglese e per il francese, non sono le lingue slave, quindi non so come si dice oggetto in lingue slave. Diciamo, in italiano, in francese, in spagnolo, oggetto che cosa vuol dire? Objectum. Object. Sto facendo l'etimologia, diciamo, latina. Ob è un prefisso, una preposizione che indica più o meno davanti a me o fuori di me in qualche modo. Il verbo iettare, che deriva, che è simile al verbo piacere. Allora, il verbo iettare è il verbo italiano gettare. Quindi un dico questo perché è una cosa complicata, perché c'entra siano iacere, sia lo iacere che lo iettare. Allora, iettare significa gettare e iacere significa giacere, quindi sono due verbi diversi, uno di stato, giaccio, e l'altro di moto, getto, però sono collegati in latino per una serie di motivi storici complessi. Allora, l'oggetto è qualcosa che o giace o è stato gettato, è stato buttato fuori di me. Questo è un oggetto. Vuol dire che non sono io, che è una cosa, che questa cosa è il prodotto di una qualche attività, o che se non è il prodotto di una qualche attività, o cosciente o incosciente. Quando cammino in campagna, inciampo in una pietra, la posso chiamare oggetto. Chiamare una pietra un oggetto già non è così, però posso andare, ma un oggetto. In realtà col termine oggetto si indicano prevalentemente dei manufatti, degli artefatti, delle cose costruite dall'uomo. E però noi quindi diciamo oggetto è qualche cosa che è stato gettato fuori di noi, ce lo troviamo fuori, è il prodotto di qualche attività o nostra, umana, o in senso lato anche della natura, anche un pietrone è qualche cosa che vabbè è stato. Più o meno questa etimologia della parola oggetto funziona sia per l'italiano, se ripeto, funziona per tutte le lingue neolatine e anche per l'inglese, perché l'inglese ha preso il termine dal, diciamo, latino. Non funziona così in tedesco. Come si dice oggetto in tedesco? Si dice con la parola Gegenstand. Gegenstand è Gegenstand, un oggetto Gegenstand. Però, se andiamo a vedere che cosa significa, da che cosa deriva Gegenstand, vediamo che il tedesco, quando dice oggetto, non pensa alla stessa cosa alla quale pensiamo noi. Oggetto, qualcosa buttato fuori, nessuno di noi pensa a oggetto come quello buttato fuori, però è una sorta di inconscio, diciamo, linguistico. L'etimologia funziona anche quando noi non la conosciamo, come funziona la grammatica anche quando noi non la conosciamo. A parte alcuni casi, come in genere gli esponenti della Lega, quasi tutti sono in grado di usare la grammatica italiana anche se non la conoscono. Quindi è uno di inconscio, diciamo. Allora, un tedesco, per dire, ho detto che Gegenstand è formato da due parole, Gegen, una, la quale vuol dire contro. È come il contro italiano, il contro francese, lo against inglese, contro, contro. E stand è il participio passato del verbo stehen, che vuol dire stare. Sta è lo stand inglese, stare nel senso di stare in piedi. Quindi cosa dice un tedesco quando dice la parola oggetto? L'oggetto non è qualcosa che è stato gettato di fronte a noi e mosta di fronte a noi. Gettato vuol dire quasi per terra, gettato, oggetto, l'ho buttato fuori. Non è così pericoloso il termine oggetto. Il termine Gegenstand è molto più minaccioso. Per un tedesco un oggetto è qualcosa che stand, sta in piedi, non sta. Sta in piedi, to stand, inglese, stehen. E gli sta contro, Gegen. Quindi un uomo può essere un tedesco. No, nessun tedesco dirà che il malandrino che sta per calargli un marciapicchio sulla testa è un Gegenstand. Ma quando dice ho trovato un oggetto, è qualcosa di molto più, come dire, generale. In qualche maniera si potrebbe dire, forzando un po' le cose, che la concezione della realtà che hanno i parlanti di lingua tedesca, probabilmente di tutte le lingue germaniche, adesso non so le lingue scandinave come siano, insomma probabilmente è simile, è una concezione molto più minacciosa di quella che hanno i popoli latini. Per i popoli latini la realtà esterna è qualcosa con cui si può sempre mediare in qualche maniera, oggetto. Anche soggetto, soggetto è uno che sta giù, subiacere. Soggetto, nel caso di soggetto è un verbo che infatti non è iectare, ma è iacere, piacere. E quindi è il soggetto colui che giace sotto, che sotto, non sopra, è un esempio soggetto, è un soggetto politico, però sta sotto. Ma l'oggetto è un soggetto, ma questo perché siccome lui adesso qua lo dice, che il plurale di Gegenstand, che è Gegenstände, per fare il plurale in tedesco a volte si cambia, quindi gegen, gegen stände, vuol dire che si mette di due, la gegen, cioè si chiama umlaut in tedesco, sulla A indica che cambia il suono, quindi gegen stände plurale, gegen stände singolare, gegen stände plurale. Il Gegenstand quindi è qualche cosa che dovrebbe Flusser, che parlava correntemente almeno cinque lingue e non era tedesco di nascita ma praghese, però aveva qualsiasi praghese all'inizio del secolo scorso, sapeva il tedesco perché Praga era una città quasi bilingue, oggi i tedeschi sono meno dell'1% della popolazione. E se pensate che il più grande scrittore praghese, il più noto scrittore praghese, è uno che ha scritto costantemente in tedesco, quindi Kafka. Kafka era una minoranza, certamente quella dei studenti austriaci di Praga, però il tedesco a Praga era quasi una seconda lingua, era quasi una... quindi insomma Flusser quando parla del tedesco. Allora, Gegenstand, perché sennò non si capisce. Allora, bisognerebbe perciò aggiungere che le cornici delle immagini attuali, sta parlando delle immagini che si muovono, sono rimaste quasi altrettanto immobili di quelle di un tempo, e che in questo senso letterale il loro status non è mutato considerevolmente. Continuano ad essere Gegenstände, cioè oggetti, cose che ci stanno davanti. Ciò che ha cominciato a muoversi è la scena visibile entro la cornice, non più una scena immobile, bensì un processo in movimento. Da ciò l'uomo di Lascaux trarrebbe la conclusione che nelle nostre immagini a muoversi sono le ombre, come accadeva sulle pareti delle caverne di fronte al tubo focolare. Lì si dovrebbe raccontare che le nostre ombre sono colorate e non si muovono solo lungo le superfici delle pareti, ma sembrano anche erompere dall'interno della roccia per poi rientrarvi. Il fiorentino allora potrebbe forse pensare che immagini del genere propriamente siano finestre. A ciò bisognerebbe rispondere che tali immagini non solo come alla finestra si muove la veduta che si osserva, ma si muove pure l'occhio che guarda fuori, un occhio che può accostarsi alla veduta e assumere anche una maggiore distanza rispetto ad essa. Sta semplicemente raccontando come nelle immagini cinematografiche e televisive ci sia una combinazione di oggettivo e soggettivo. La mia macchina da presa non sta solo ferma, muovendosi la macchina da presa, muovendo le caratteristiche tecniche e aprendo o chiudendo il diaframma, la luminosità, eccetera, eccetera, nelle immagini che si muovono nel cinema, diciamo, è incorporata una soggettività, che è l'occhio della macchina, che è il fatto che la macchina sia mobile, cosa che evidentemente l'uomo di Lascaux non potrebbe capire. Con questo trucco di dire l'uomo di Lascaux parliamo con un paleolitico, vediamo che cosa diciamo capisce, lui semplicemente mette in luce alcune caratteristiche delle immagini in movimento. Per accrescere ulteriormente la confusione causata in tal modo, si potrebbe aggiungere che queste immagini, oltre a muoversi, emettono anche dei suoni, accidenti. Dapprima, certamente entrambi, sia l'uomo di Lascaux che il fiorentino dell'epoca dei Medici, comprenderebbero la cosa in questi termini. Durante il trasporto da caverna a caverna o da chiesa a chiesa, è il modo in cui queste due ipotetiche persone interpretano il termine immagini in movimento, durante il trasporto da caverna a caverna, da chiesa a chiesa, quelle immagini producono dei rumori. Successivamente ipotizzerebbero che le ombre che si muovono sussurrino i segreti del regno delle ombre, come in un romanzo di vampiri o dell'orrore. Si dovrebbe spiegare loro che le figure che si muovono nell'immagine parlano ad alta voce, ridono e cantano, che il tuono nell'immagine fa sentire il suo scoppio, le gocce di pioggia e il loro picchiettio, e anzitutto che inaspettatamente l'intera processione delle immagini è immersa in altri suoni, per esempio musicali, colonna sonora. Di fronte a tali informazioni, verosimilmente entrambi, l'uomo di Lascaux decisamente, Il fiorentino, con qualche esitazione, affermerebbero che tali immagini sono realtà alternative, effettualità diverse. No? Non sono la nostra realtà, direbbe, vabbè, ok. Sono robe così, si chiamano realtà, quindi vuol dire che sono una realtà diversa. Non si potrebbe concordare con una simile opinione. Si dovrebbe far presente che quelle immagini, certo, sono visibili e udibili, ma non si possono odorare né gustare. Gli manca qualcosa a quelle immagini. E prima di tutto è impossibile urtare le figure presenti nelle immagini. Entrambi non accetterebbero questa precisazione come un controargomento. L'uomo di Lascaux affermerebbe che oltre a quella della vita desta esistono altre realtà, per esempio il mondo dei sogni e il regno dei morti, e che le immagini di cui parliamo sicuramente devono essere annoverate tra queste altre realtà. E il fiorentino direbbe che nel sentire la nostra descrizione ha acquistato una tale fiducia nella nostra tecnica di produzione delle immagini da convincersi che in futuro saremo in grado di realizzare immagini che coinvolgeranno anche il tatto, l'odorato e il gusto. Si sarebbe costretti a dare ragione ad entrambi. E per complicare ulteriormente le cose si dovrebbe aggiungere che noi stiamo proprio cominciando a vedere e a udire in tali immagini in realtà sinora mai viste e mai udite. Per esempio algoritmi, corpi curvati nella quarta dimensione o oscillazioni che oltrepassano le nostre capacità percettivo-sensibili. Per esempio oscillazioni elettromagnetiche al di fuori del esiguo spettro delle radiazioni visibili. A queste precisazioni entrambi, l'uomo di Lascaux e il fiorentino, dichiarerebbero concordi che al nostro posto ormai non farebbero altro che stare a guardare tali immagini, lasciando perdere il mondo sensibile, mortalmente noioso al confronto. A questo punto si dovrebbe ammettere che questa è già la nostra situazione, che noi già facciamo così. La gente se ne sta effettivamente rintanata in casa la maggior parte del tempo, davanti a cornici di immagini rimaste relativamente immobili per guardarle fissamente. Allora entrambi chiederebbero com'è che le immagini vengono messe davanti a questa gente accovacciata in casa. La risposta a questa domanda inorridirebbe entrambi. Si dovrebbe dire loro infatti che propriamente le immagini non sono là dove la gente se ne sta accovacciata, bensì in un luogo che è a essa inaccessibile ed è da lì che le immagini sono irradiate alla volta dalla gente chiusa in casa. L'orrore dei due interroganti avrebbe due lati. Il primo, se le immagini che si muovono sono irradiate entro le cornici relativamente immobili a partire da un luogo inaccessibile, allora esse si muovono nella loro totalità e al contempo si muove ogni cosa al loro interno. È un movimento doppio nel quale il contenuto dell'immagine si muove altrimenti che l'immagine intera. L'altro lato, con una simile irradiazione, moltissimi individui chiusi in casa, attraverso molte cornici di immagini, guardano fissamente nello stesso istante la stessa immagine e tramite quella stessa immagine guardano tutti lo stesso posto a loro inaccessibile. Là si incontrano tutti gli sguardi, ma senza potersi vedere tra loro. Questo è spaventoso. Che tutte queste persone abbiano la stessa veduta e proprio per questo siano cieche l'una per l'altra. Di fronte a un simile marchingegno infernale che conduce a una simile cecità, entrambi i visitatori provenienti dal passato non vorrebbero prolungare il loro soggiorno in mezzo a noi. Siete convinti di questo, perlomeno di come lo dice lui? Con questo trucco di immaginare di spiegare il cinema e la televisione a persone che non hanno questa esperienza, quindi Flusser riesce, questo è un vecchio trucco, si chiama, vi dico un altro termine tedesco, Entfremdung, che vuol dire straniamento, fremde è lo stranger inglese, ed è un metodo, che una modalità di comunicazione che già teorizzavano dei poeti, pensate un po'. dei critici di poesia, la cosiddetta scuola formalista russa degli inizi del Novecento, e che poi Brecht qualche decennio dopo riprese nel suo, diciamo, teatro. Che cosa vuol dire straniamento? Vuol dire prendere, per esempio, delle parole, ma questo vale anche per altre situazioni, insomma, prendere situazioni, prendere storie, prendere narrazioni che per noi sono scontate, sono usurate. La gran parte delle frasi che noi diciamo, anche se formalmente sono nuove, indicano attività banali. Adesso leggo un libro, stasera vado al cinema, oggi mi faccio una pasta asciutta, a che ora vai a trovare il tuo amico? Che schifo questi centri sociali pieni di fumo. Quando vai a trovare la mamma? Ti ha chiamato tua sorella? Tutte robe sono... Se però io riesco a trovare un modo attraverso il quale queste parole o queste situazioni acquistino un altro valore, un altro, diciamo, significato, per esempio se le proietto in contesti diversi da loro, per esempio se pronuncio la frase "hai telefonato a tua sorella?" accovacciato per terra in campagna e fissando negli occhi una lucertola, per dire, improvvisamente quella frase abusata, banale, stupida, acquista un altro significato. Ma come, pazzo, parla con un certo, è scemo, gli altri di volta il cervello, oppure, cioè. Entfremdung, straniamento. I formalisti russi, Klebnikov in modo particolare e poi dopo Sklovsky, dicevano che questa è l'essenza della poesia. La poesia consiste nel prendere le usuali e normali parole della vita e torcerle, dargli una torsione innaturale, metterle in contesti in cui non sono stati usati, accoppiarle in un modo che nessuno ha fatto prima. Questa è la poesia, la poiesis, questo è il carattere creativo del linguaggio. Il linguaggio ha questo carattere insito dentro di sé. Ogni linguaggio ha questa possibilità. Non ci sarebbe poesia, non ci sarebbe uso straniato e inedito del linguaggio se il linguaggio non prevedesse fino dall'inizio questa possibilità. Il linguaggio è di per sé creativo, ma ovviamente non si può essere creativi 24 ore su 24, non si può essere creativi, non si può creare in continuazione una struttura degli accoppiamenti nuovi. Se devo, e questa è la vera ragione per la quale è riduttivo pensare che il linguaggio abbia l'unico scopo di comunicare. Se avesse come unico scopo quello di comunicare non sarebbe creativo, perché per comunicare è meglio, è più opportuno nella gran parte delle situazioni ripetere delle cose già dette, già fatte. Le situazioni sono più o meno sempre quelle di fronte a cui un animale si trova. Perché avremmo bisogno di uno strumento così complesso e così creativo come il linguaggio se dovessimo dire solo le cose che abbiamo detto all'inizio della lezione? Stai attento, lì c'è il cibo, non inciampare, non rompere i coglioni, giù le mani da mia moglie, dammi quella noce di cocco che la mangio io perché tu sei piccolo e scemo. Questa già invece è qualcosa di più, è vero? È un concetto che è tipicamente umano e non tanto, diciamo, scimpanzesco o gorillesco, dice dammi quella lì, anche se sono prepotenti pure loro, come ovvio, ma insomma no. Il linguaggio quindi prevede dentro di sé questo nucleo creativo, ma questo nucleo creativo è la gran parte delle volte soltanto potenziale, è presente in potenza, dice, ma sì, si potrebbe fare questo, ma in realtà non lo faccio perché devo andare a comprare due etti di prosciutto, e se gli recito la Divina Commedia al salumiere, questo mi dà una mazzata in testa e non mi dà il prosciutto. E quindi gli dico, per favore, vorrei due etti di prosciutto tagliato fine, per cortesia, così poi arriva Caronia che si incazza, perché tutto è già prodotto finissimo, che è, perché tutte le mamme avranno poi prodotto fine, perché sennò i loro figli non lo mangiano, la macchina rimane sul fine, quindi morale, a me che invece non me ne fotte un cazzo che sia tagliato sottile, questa è una confessione. Ragazzi, mi gira di coglioni che devo sempre, cioè, per via delle mamme e delle figlie dei loro maledetti bambini, allora devo sempre dire, per così me lo taglio un po' più. Se però me lo dimentico, è la fine. E quindi in questo caso farei un uso un po' più creativo del linguaggio, però vedete che anch'io a volte mi dimentico di fare un uso creativo del linguaggio, perché come tutti noi sono intrappolato nella routine, quindi mi limito a chiedere, mi dà due etti di prosciutto. E non gli dico, per favore, non tagliate così fine come la signora di prima, grazie. E se non aggiungo questa cosa, ripeto, poi queste cose sono che non riesco a staccare una fetta dall'altra, insomma, quindi mi tocca mangiare il prosciutto con coltello e forchetta come fosse una torta di prosciutto, uno strato di prosciutto così, che è impossibile staccare le fette, cioè, non so come cazzo fanno queste mamme. Cioè, si procurano del lavoro in più, dice, non solo hanno i figli con piccoglioni al massimo, ma in più devono pure lavorare il triplo loro, vabbè, comunque contenti loro, contenti tutti, d'altra parte, per quel cretino che si sono sposate, poteva essere, cioè, l'errore sta già lì, insomma, quindi anche i bambini non potevano uscire tanto meglio. Fine della digressione. Allora, cosa vi stavo dicendo? Che qui Flusser quindi fa uso, come l'ha fatto la Patalunga, fa uso di questa tecnica dello straniamento, quindi lui dice cosa faccio per capire, per capire io intanto qual è la vera novità. Noi ci siamo così abituati, per noi fotografia, televisione, rotocalchi, cinema, sono così abituati, così banali, ma come sono sempre stati, chissà cosa ci sarà. Allora lui che cosa fa? Semplicemente prende questi due personaggi immaginari, l'uomo della scuola, l'uomo della Firenze dei Medici, collegati col tema delle immagini evidentemente, e suppone di dovergli raccontare la nostra vita e cerca di immaginarsi le loro reazioni, quindi questo è straniamento, entfremdung, scriviamo pure, perché oggi l'ha ragionato nel tedesco, come l'altra volta era quella del greco. Questo è un corso di guida, un corso di lingue, non è un corso di comunicazione multimediale. Siamo all'istituto Schenker, Ent è un prefisso che significa separazione, fremde è straniero, e ung è come ole. In italiano, situazione, definizione, entfremdung, lo straniamento, si potrebbe anche dire alienazione, ma la traduzione più giusta è quella di straniamento. Allora, parliamo sempre dei due nostri interlocutori, parla sempre Flusser dei nostri interlocutori immaginari. Sicuramente la cosa che uno preferirebbe sarebbe andarsene con loro, a godersi i quadri del primo rinascimento o le immagini dei tori e dei cavalli primitivi, sfuggendo al diluvio accecante e assordante delle immagini, ma una fuga del genere non può riuscire. Ovunque infatti si tentino escursioni, uno si porta con sé quegli apparati da cui prorompe il diluvio delle immagini accecanti e assordanti. Questi apparati che ci trasciniamo ovunque non hanno neppure più necessità di ciondolare davanti alle nostre pance. Li abbiamo già tutti nella pancia ed essi scattano, si arrotolano e si sviluppano nel nostro intimo. Noi siamo ormai consegnati al diluvio delle immagini sonore. Il diluvio delle immagini sonore, dico io, lo ripeto io due volte. Non possiamo remare contro la corrente delle immagini alla volta delle buone vecchie immagini. Se non vogliamo affogare, dobbiamo cercare di remare più velocemente dalla corrente o imboccare una diramazione laterale nella speranza di trovare un punto di ancoraggio. Poiché non possiamo più produrre le buone vecchie immagini, non possiamo più produrle, con buona pace dei pittori della Domenica, i quali continuano a dipingere le buone vecchie immagini, ma non possiamo più produrre le buone vecchie immagini. Dobbiamo creare immagini mobili e sonore molto più nuove di quelle che ci stanno sommergendo, o produrre delle immagini quiete, che superino il diluvio delle immagini. Siccome su questa cosa torneremo, immagini quiete. Allora, già vedete, in questo pezzo vedete Flusser che contrappone il diluvio delle immagini, le immagini che ci sommergono, che dice lui, i cui dispositivi di generazione non stanno già più fuori di noi, ma addirittura sono stati digeriti, introiettati, se li portiamo da parte. A queste immagini lui contrappone quelle che chiama immagini quiete. Scriviamolo in tedesco. Stille Bilda. Immagine in tedesco è Bild. Immagine. E still è come in inglese, più o meno, quindi è fermo, quieto, tranquillo. Le immagini quiete, Bild è il plurale quieto. Immagini quiete. Still Bild. In effetti è la cosa principale, insomma, che dice che si... Questa affermazione non può semplicemente valere così, deve trovare una base d'appoggio. In primo luogo bisogna mostrare in modo plausibile perché non ci è possibile tornare alle vecchie immagini. Poi, come possiamo mettere fuori gioco tecnicamente, esteticamente, esistenzialmente le immagini che minacciano di affogarci? E infine, come e se in assoluto possiamo produrre immagini quiete, come difesa e salvezza delle immagini mobili e sonore. Allora, quindi vedete che qui Flusser vi sta dicendo più o meno le cose che vi dicevo io prima, no, io sono io che le dico come Flusser, non Flusser come me, è ovvio, e cioè che l'epoca delle immagini che Flusser chiama tecniche è un'epoca totalmente differente, cioè le immagini tecniche, le immagini dopo la fotografia sono immagini totalmente differenti da quelle che vengono prima, non sono comparabili, hanno non solo un sistema di produzione ma anche di fruizione totalmente differente. E vediamo come spiega questa cosa Flusser. Le buone vecchie immagini venivano create tutte le volte che uno si distanziava da un oggetto per considerarlo e per rendere accessibile ad altri ciò che aveva visto. Questo passo indietro dall'oggettivo al soggettivo e la svolta susseguente nell'intersoggettivo, io vedo una cosa, c'è una certa distanza tra me e quella cosa e quindi posso vederla, distanza non solo fisica ma anche evidentemente mentale. Dopo che l'ho vista mi ritiro un attimo in me stesso, io sono un pittore del Rinascimento, mi ritiro in me stesso, devo fare questo salto dall'oggettivo, questo tornare indietro dall'oggettivo al soggettivo. Una volta che ho fatto questo salto dietro e ho poco o tanto meditato su quello che ho visto, allora faccio un salto intersoggettivo, cioè mi metto lì, piglio la mia tela e dipingo per farla vedere ad altri, no? Quindi questo è il meccanismo, dice Flusser, di formazione delle vecchie immagini. Occorre una distanza tra il creatore dell'immagine e ciò che ha osservato, una distanza tanto fisica quanto temporale, perché ci vuole del tempo perché queste immagini, e una distanza anche di tipo categoriale. Devo evitare che questa immagine sia il mondo in generale, ma deve essere il mio mondo, deve essere il mondo di Michelangelo, il mondo di Raffaello, il mondo di Van Gogh, eh? Deve essere il modo in cui non tutti i giudizi universali sono uguali, no? Quello è il giudizio universale di Raffaello e quella è la Cappella Sistina. Quindi ci vuole una distanza fisica, spaziale, temporale e intenzionale. L'intenzionalità deve essere fondamentale. Questo passo indietro, dall'oggettivo al soggettivo, e la svolta susseguente nell'intersoggettivo, costituiscono un gesto di straordinaria complessità, ed entrambi gli esempi storici già ricordati possono illustrarlo. L'uomo di Lascaux guardava il suo oggetto, per esempio un cavallo, da un punto di vista soggettivo. Si trattava di una veduta fuggevole e privata, e questa doveva essere fissata e resa pubblica per renderne partecipi gli altri. Per fare questo, l'uomo di Lascaux cifrava la sua veduta in simboli e con spatola e colori trasponeva questi simboli su una parete di roccia. Chi conosceva il codice e passava di fronte alla parete poteva decifrare l'intenzione e ricevere il messaggio. Da tutto questo il gesto del fiorentino non si distingueva in modo essenziale, se non per un aspetto. L'oggetto a cui il fiorentino si riferiva non era altrettanto oggettivo, ma era già immerso in una precedente soggettività. Per esempio, era una scena biblica. Quindi c'è una mediazione, guarda caso, data dalla parola. Quando io faccio pittura sacra, creo delle immagini che rappresentano qualcosa che un testo ha già rappresentato, una storia della Bibbia, quindi è scritta in parole, pronunciate o scritte. Per esempio una scena biblica. Ciò significa che il codice in cui il fiorentino cifrava la sua veduta consisteva di simboli già istituiti in cui egli inseriva i propri. Detto in altri termini, l'immagine di Lascaux è preistorica. Preistorica. Non solo perché è fatta di tanti anni fa, ma quanto perché non c'è questo codice intermedio che c'è lì, quindi è prima della storia. E può essere sempre di nuovo decifrata da ogni destinatario in base al suo proprio mondo, in base al suo proprio metodo. L'immagine del fiorentino è storica e per decifrarla è necessario conoscere la storia. Se voi non sapete se voi non sapete nulla della storia di Giuditta e di Oloferne e vedete una signorina col volto incazzato che tiene una spada in mano e nell'altra mano regge una testa mozzata, dice ma chi è quello? Chi è pazzo? Chi è quello? Ma voi sapete, bene o male sapete, anche se non lo sapete chiedete a mamma o chiedete al fratello maggiore o chiedete a Carolina e qualcuno vi andrà, guarda la storia di Giuditta Ferne, quella che si fa scopare dal capo di Filisteo per potergli poi tagliare la testa, dice cazzo guarda che roba, più o meno tipo Patrizia D'Addario con Berlusconi, grosso modo, insomma, solo che non le è riuscito, pare totalmente alla povera D'Addario l'operazione. Attenzione, le immagini non possono più essere prodotte in questo modo, dice Flusser. La scienza moderna, a partire da Cartesio, si è posta a distanza dall'oggettivo e dall'invenzione della fotografia ha approntato degli apparati finalizzati a fissare e a codificare ciò che si vede. Se chiamiamo immaginazione il gesto complessivo del produrre immagini descritto in precedenza, allora si deve dire che la scienza e la tecnica moderne, al fine di perfezionarla, hanno spostato l'immaginazione umana negli apparati. È chiaro cosa dice? Se chiamiamo immaginazione il gesto complesso nel produrre immagini come quelle di Lascaux e come quelle della Firenze del Rinascimento, allora si deve dire che la scienza e la tecnica moderna, al fine di perfezionarla, hanno spostato l'immaginazione umana negli apparati, nella macchina fotografica, nella macchina da presa, nella televisione. L'hanno spostata, non è più, non siamo più noi, non c'è più il pittore che ha letto la storia di Giuditta e di Oloferne e dice adesso faccio un quadro in cui rappresento Giuditta e Oloferne, o adesso disegno il cavallo o il bisonte che ho visto l'altro giorno passando per la cosa. Adesso ci sono degli apparati, cioè degli insiemi di meccanismi, delle macchine che funzionano e che è solo loro che immaginano, non più noi. Questo dice, possiamo essere d'accordo o no, ma questo dice Flusser. Rileggo per l'ennesima volta, se chiamiamo immaginazione il gesto complesso del produrre immagini descritto in precedenza, allora si deve dire che la scienza e la tecnica moderna, al fine di perfezionarla, hanno spostato l'immaginazione umana negli apparati. Da allora nessun uomo è più in grado di entrare in concorrenza con gli apparati. E la questione è anche più intricata. Ogni qualvolta osserviamo un'immagine a Lascaux, come a Firenze, noi assumiamo il punto di vista degli apparati, perché essi impregnano l'intera nostra immagine del mondo. Di conseguenza noi riceviamo, ovvero decifriamo le vecchie immagini nel contesto dell'immagine moderna del mondo, apparaticamente. Per esempio? Per esempio noi guardiamo il bisonte di Lascaux o la nascita della Venere di Botticelli, riprodotta sulle pagine di un libro o di una rivista. Non abbiamo più bisogno di andare là e di vederla. Alla scorsa sarebbe impossibile, perché ormai la grotta è stata chiusa da un bel po', perché il numero eccessivo di visitatori alterava il microclima. Ma non abbiamo bisogno di andare agli Uffizi, di vederla, di guardarla. Già il fatto di vederla negli Uffizi comunque la vedremmo in un contesto diverso da quello nel quale l'aveva pensata Botticelli, ma diciamo che quello lì comunque ancora. Noi la vediamo riprodotta prima, ma non è solo quello. È che noi ci lasciamo ingannare facilmente e quindi pensiamo che la nascita di Venere di Botticelli sia un modo un po' arcaico e un po' vecchio e un po' datato, anche se molto interessante, di produrre le immagini che facciamo oggi. Possiamo pensare che la nascita della Venere di Botticelli sia precorra la nascita di Venere, quel quadro precorra, che ne so, un moderno balletto televisivo. Pensiamo che il balletto televisivo e la nascita di Venere siano simili. Ci sono tanti cambiamenti di cultura, di modo di vestire, di soggetto, ma la nostra idea di alcuni corpi femminili messi in sede ormai è quella del balletto televisivo, è quella dei culi delle veline, quella delle immagini che vediamo in televisione. Noi leggiamo automaticamente la nascita della Venere di Botticelli, inconsapevolmente, anche se siamo molto colpi, anche se sappiamo benissimo il mito da cui nasce la cosa, eccetera, eccetera, ma lo assimiliamo ad una delle immagini che vediamo adesso. Non ci sembrano differenti. E quindi non siamo in grado, perlomeno non siamo in grado in prima, diciamo, battuta, di riflettere sulla differenza di statuto che c'è tra quelle immagini, e cioè il fatto che la Venere di Botticelli non che sia migliore o peggiore, è semplicemente nata in maniera diversa. La nascita di Venere è il prodotto di alcune ore, di alcune decine, probabilmente centinaia di ore di attività di una persona chiamata Sandro Botticelli, che aveva acquisito certe tecniche consistenti nel prendere certi pigmenti, pestarli in certi mortai, aggiungere un diluente di tipo oleoso, prendere un ciuffetto di peli animali, intingerlo lì dentro, e fare dei gesti per cui questo colore si stendeva in modi particolari su una superficie, in modo tale che questo insieme di gesti del signor Sandro Botticelli, messo insieme con la sua intenzione di rappresentare una scena che non aveva mai visto, mai, ma che rappresentava una storia raccontata e presente nella tradizione molto antica e molto lontana, che era già antica e vecchia nel Cinquecento, figuratevi che è la nascita di una personaggio inesistente, una dea chiamata Afrodite o su Venere, più pazzo di così, come poteva essere, non ha preso due ragazzotte più o meno piacenti con una minima misura di reggiseno, perché di più sotto a quella non le pigliano, e metterle e farle agitare davanti a una macchina da presa, mettere a agitare davanti a una roba che resiste. È un processo produttivo totalmente diverso. Io sono però stupido. Quando per esempio, no, perché per esempio quando un regista va a filmare e a creare un storyboard o un soggetto, prima, è proprio un storyboard. Sì. Lui comunque interpreta una. Certo. Probabilmente per le persone che lo vedono è diverso, però è lo stesso procedimento per me. Di una persona sicuramente, perché comunque questo procedimento di creare prima con l'immaginazione personale, è chiaro che ormai per esempio anche con Pedotta, il film quello di Tarantino ultimo, quello lì è praticamente anche il frutto della visione dell'immaginazione sull'immaginazione di altri, è tutto una stratificare, vabbè, ma anche la pittura penso che era così, nel senso anche loro avevano visto altri dipinti che hanno suggerito altri sistemi di lettura, no? Quindi tu dici, noi non abbiamo detto che nell'epoca delle immagini tecniche non c'è più un'attività di progettazione o di... Certo che c'è. Sì, ma anche di immaginazione. Di immaginazione, di tutto quello che vuoi. Soltanto che il modo in cui le immagini vengono realizzate influisce sul significato di queste immagini. L'impostazione è quella classica di McLuhan che vi ho detto l'altra volta. Non esiste una immaginazione umana che funziona sempre nello stesso modo, indipendentemente dagli strumenti che usa. Gli strumenti che si usano determinano non soltanto i concreti modi di produzione di questa immagine, ma anche il significato sociale di questa immagine, anche il modo in cui funziona la stessa mente dell'uomo. Non esiste qualcosa chiamata natura umana che funziona sempre allo stesso modo, per cui gli uomini immaginano sempre le stesse cose. Il progetto, l'immaginazione e il rapporto, il modo in cui l'immaginazione di Botticelli sviluppava gli oggetti è diverso. Sì, ma perché cambia il modo di percepirle prima di tutto? Cambia il modo di crearle. L'immaginazione di Botticelli è diversa da quella di Kubrick e di Antonioni e di qualunque regista, diciamo, cinematografico. Molti registi, citiamo Kubrick, Cronenberg fra i tanti, ma tutto sommato anche Hitchcock, possono addirittura fare delle citazioni esplicite o implicite della storia, diciamo, dell'arte. Ma l'inquadratura di Dead Ringers di Cronenberg, in cui si vede uno dei due, diciamo, gemelli disteso, nudo, con una roba sopra, e fatto di grande scorcio, in cui qualunque studente liceale riconosce una citazione della Reposizione di Mantegna, con lo scorcio molto forte, eccetera, eccetera. Ma quella non è la Reposizione di Mantegna, è nata, non perché banalmente Cronenberg non è stato lì a pitturarla perché quando tu stai lì a come dire, pitturarla. E quando il, insomma, come dire, quando il tempo di produzione di una immagine è di giorni, giorni e su giorni, e quando il tempo di produzione dell'immagine è di un 125esimo di secondo, inevitabilmente le cose cambiano. Non che non c'è immaginazione nel centro, c'è anche lì l'immaginazione, ma non si può trattare della stessa immaginazione. È un modo, un sistema complessivo di produrre immagini che è totalmente diverso da quello, e in cui come dire, la questione della durata non è così banale come può sembrare a prima vista. Dice va bene, a fare un quadro ci vuole un mese, diciamo due, tre, quattro giorni, dipende, diciamo un mese. Però ci vuole un mese di lavoro, a fare una fotografia ci vuole in tutto un secondo. È evidente che una persona, che un pittore potrà fare 100 quadri nella sua vita, un fotografo farà 100.000 fotografie, e quindi semplicemente c'è un cambiamento, c'è un cambio nella, come dire, produzione, e quindi non è possibile vedere. In realtà noi abbiamo una vecchia abitudine, e cioè quella di considerare l'opera come qualcosa di singolo, di ripetibile, eccetera eccetera, e infatti prendiamo alcune foto e ce le stampiamo nella memoria e cerchiamo di farle funzionare come dei quadri. Ognuno di noi ne ha una. Adesso io vi faccio un esempio che ovviamente per voi non va bene, ma insomma, diciamo, una di queste foto per me fin da quando ero bambino era quella di Robert Capa, Guerra Civile Spagnola 1936, il Crucifigliano che muore, quello così, da solo, istantanea, guarda, si scopre adesso probabilmente che invece quello lì era un poverino che non è affatto morto, ma uno messo in posa la capa, non ha nessuna importanza. Evidentemente io ero convinto quando ero bambino di sfogliare il libro, di sfogliare le, diciamo, riviste, e i quadri riprodotti che vedevo e le fotografie erano la stessa cosa, o erano cose, diciamo, simili. In realtà, se Robert Capa è un grande fotografo, io non posso saperlo soltanto guardando quella foto, come invece posso sapere o no che Sandro Botticelli era un grande pittore, anche se guardo soltanto La nascita di Venere, perché La nascita di Venere è una sorta di immagine frattale dell'opera di Botticelli. Ogni quadro di un pittore del passato in qualche maniera contiene in misura diversa un po' tutta la sua immaginazione, la sua poetica, la sua... Quella foto di Capa non contiene tutta l'immaginazione di Capa. Per capire qual era l'immaginazione di Capa, ammesso che si possa parlare di immaginazione, parlo di un fotografo intenzionalmente che sta al limite, che è ambiguo, che era in parte reporter e in parte fotografo d'arte. Quindi non dico neanche Berengo Gardin, non dico neanche Man Ray, non dico neanche fotografi che sono chiaramente artisti, fotografi che sono fotografi. Robert Capa era un fotografo, era un giornalista, era un fotogiornalista, però molto bravo. Non dico neanche Bresson, non dico neanche Cartier-Bresson, che già era di una forma un pochino diversa, proprio Capa, ho detto Capa, però anche Capa posso pensare che aveva una immaginazione. Ma quante foto devo aver visto di Capa per capire qualcosa dell'immaginazione di Capa? Non basta quella una foto non è un concentrato dell'immaginazione di un fotografo come un quadro lo è dell'immaginazione di un pittore. Questa è una conseguenza non solo del tempo più lungo che ci vuole per fare un quadro rispetto a fare una foto, ma dell'esistenza della mediazione, dello strumento di mediazione che c'è tra l'immaginazione. Per realizzare una immaginazione occorrono sempre strumenti. Non esiste che l'uomo realizza, l'uomo non ha mai realizzato le cose a mani nude. Per fare un quadro ci vuole una tecnica, bisogna sapere i colori, dove prenderli. I pittori medievali si pigliavano le pietre, il lapislazzulo, cioè quando arrivano i lapislazzuli, che sono pietre che arrivano dall'Oriente, pietre dure ma che si possono pestare, che arrivano dall'Oriente, improvvisamente il blu dei quadri cambia, eh? Cioè, anzi, il blu di Giotto, quello della Cappella degli Scrovegni è una roba miracolosa per i tempi di Giotto, ma meno di un secolo dopo Giotto arriva il lapislazzuli e i manti delle Madonne di Piero, di Masaccio, eccetera, sono di un blu incomparabilmente diverso, diversissimo da quello lì, perché arrivava lapislazzuli, arrivi, lo devi pestare, poi devi pigliare l'olio, sapere, se li facevano loro non c'erano i tubetti di colore, non c'erano i negozi con i tubetti di colore. Quando tu entravi nella, come dire, bottega di un pittore fiorentino, in qualunque posto, la prima cosa che facevi era il bambino e cominciavi a pestare i lapislazzuli nel mortaio e poi a mescolare per fare i colori, poi era lui che guardava. È una tecnica molto complicata, ci vuole sapienza. Come ci vuole sapienza per fare le foto? Se facciamo una foto, io, ma cosa la fai tu, sei già più lunga, ma insomma diciamo. Non le facciamo come le ha fatte Robert Capa, come le faceva Cartier-Bresson, come le faceva Man Ray, non pensiamo, cioè, è ovvio che anche lì ci vuole, ma la mediazione che c'è tra la mia immaginazione e l'opera è molto, come dire, diversa se la tecnica consiste in un insieme di procedimenti anch'essi lunghi. A preparare i colori per la pittura ci vuole quasi altrettanto tempo che a dipingere, in certi casi anche più tempo, bisogna lasciare lì i colori, fare le matrici, c'è tutta una serie di robe, per cui c'è una relazione, come dire, intima tra il corpo del pittore e gli strumenti tecnici che gli servono per realizzare la sua immaginazione, che fanno sì che in qualche maniera tu rimani sempre in controllo della tua, tu hai sempre il controllo della tua, diciamo, immaginazione. Quando lo strumento attraverso quando la tecnica attraverso la quale tu realizzi la tua, diciamo, immaginazione consiste in uno strumento automatico che calibra la luce più o meno da solo o sul quale tu devi, e che semplicemente introduce e che quindi riflette più o meno fedelmente o più o meno con le deformazioni che tu decidi in base a, nella cosa classica, insomma, tempo di apertura, tempo di esposizione, apertura del diaframma, eccetera, eccetera, eccetera, condizioni di luce esterne, quelle sono le cose su cui tu puoi ovviamente influire, ma la tecnica che in qualche modo la tua immaginazione di fotografo è largamente migrata dentro la macchina fotografica, molto più di quanto l'immaginazione di Botticelli fosse migrata dentro i suoi pennelli. I pennelli di Botticelli e i colori di Botticelli rappresentano qualche cosa che Botticelli suda sette camicie per fare, lui in prima persona o i suoi ragazzi, i suoi schiavi, i suoi neri, quello che dice, ma insomma degli esseri umani fanno. L'immaginazione accompagna passo per passo lo sviluppo e l'approntamento delle, diciamo, tecniche. Il fotografo non suda per realizzare la tecnica che gli consente di realizzare la sua foto, qualcun altro l'ha fatto per lui. C'è del lavoro, diciamo, umano, c'è della progettualità altissima all'interno della macchina fotografica che lui usa, ma ce l'ha messa lui? È la sua? No, è la grafica 3D, il dipinto. Da un certo punto di vista le tecniche digitali cambiano cambiano un poco le cose, perché pur essendo da un certo punto di vista uno sviluppo della foto, perché anche lì l'immaginazione, diciamo, dell'autore e del creatore è largamente migrata dentro le macchine, che la cosa sia, che la tecnica sia una macchina fotografica analogica o un software per produrre immagini, no, diciamo, non cambia tanto. C'è sempre qualcuno diverso da te, creatore, diverso da te che ti immagini, che ha posto le condizioni per cui tu possa fare quella foto, produrre quella certa, come dire, animazione. Nella grafica 3D o comunque nella generazione digitale di immagini sintetiche, quindi non foto digitali ma immagini sintetiche, però c'è un passo in più, c'è tutto il lavoro lungo che tu devi fare, e questo è un, diciamo, ritorno diciamo all'indietro, ma rimane sempre l'altra cosa, l'altro momento. Esatto, solo l'algoritmo. Ora, che cosa sono gli algoritmi? Che cos'è? È esattamente come la macchina fotografica, è immaginazione incorporata in una macchina. Non è che Flusser dice che questo si fa schifo, dice, però le cose stanno così, dice. Secondo Flusser praticamente lo scarto, diciamo, di azioni che uno può produrre, cioè che può fare, certo. Cioè, nel senso, i mezzi con cui si può una persona esprimere, sì, sono minori. Sono diversi. Come dire, diversi. Sì, vabbè. Sono diversi. E la cosa che è importante, cioè la sua affermazione è: la scienza e la tecnica moderna, al fine di perfezionare l'immaginazione, l'hanno spostata negli apparati. Non è che gli apparati se li sono inventati da soli, c'è sempre qualcuno che ha lavorato, c'è sempre qualcuno che si è immaginato. Mettiamola in questi termini. Questa è una concezione incompatibile con l'idea che l'immaginazione sia una cosa totalmente individuale. Allora c'è il genio che ha più immaginazione degli altri. Il punto di partenza di questo modo di pensare, come quello di McLuhan, come il mio, è che l'immaginazione, l'immaginario, è un processo essenzialmente sociale. È la società che crea l'immaginazione, è collettivo, è qualcosa che matura nella, e che si esprime attraverso dei singoli, ma il fatto che siano dei singoli che si esprimono non vuol dire che l'immaginario, questo è sempre successo così. Dante non è il genio che si è inventato tutto lui, Dante esprime l'immaginario dell'epoca tardo medievale in ambiente fiorentino, era bravissimo, era bravo a fare le parole, e quindi evidentemente è giusto che si parlava di lui, ma non si è inventato un cazzo lui, La sua concezione dell'inferno viene da testi arabi, la concezione del mondo, la geografia, la roba, viene da testi arabi che lui non ha detto in modo esplicito. Tutte le sue robe derivano da, c'è un tessuto collettivo, l'immaginario è un processo che circola dentro la società. Qualcuno è soltanto più capace di altri di esprimerlo, più bravo di altri a esprimerlo, ma l'immaginario in quanto tale non è un processo individuale. I quadri di Van Gogh non se li è sognati Van Gogh, che ha questo genio ineffabile, è una puttanata la teoria del genio ineffabile. I geni ineffabili sono solo persone più capaci di altri di esprimere processi collettivi. Allora, la tecnica disponibile in un dato momento condiziona il modo, non solo il modo in cui si esprime, il modo in cui questi pretesi geni sono capaci di, quindi il modo in cui Botticelli, abbiamo preso Botticelli oggi, il nostro capo espiatorio, o Piero della Francesca, o Michelangelo, nel quadro in cui il grande pittore esprime la sua cosa, ma strutturano anche l'immaginario di un'epoca in cui il principale processo di produzione di immagini consiste nel prendere certe pietre, certi pigmenti, pestarli, fare i colori, preparare la tela, mettersi lì, immaginare, prendere il pennello, uno o più pennelli, intingerlo lì e dare delle pennellate sulla tela. È un immaginario diverso dall'epoca in cui per fare una foto basta prendere una cosina, fare così, catturare la cosa, là. Cioè è diverso l'immaginario, non che sia migliore o peggiore, è semplicemente diverso. Le immagini non sono più la stessa cosa, non sono quella cosa. Diciamo, non esiste una essenza fuori dalla storia dell'immagine che si realizzerebbe in modi diversi nelle singole epoche. L'essenza delle cose non esiste, le caratteristiche uniche, uguali, irripetibili, diciamo costanti. Noi chiamiamo con lo stesso nome, perché per comodità facciamo così, immagine, qualche cosa che è molto diverso dai tempi di Brunelleschi e di Botticelli ai, come dire, tempi nostri, perché la tecnica di produzione dell'immagine è diversa. Questo non vuol dire che non ci sia più, diciamo, l'immaginazione, cazzo, ma è mescolata in modi diversi e in proporzioni diverse negli strumenti tecnici e nella testa del singolo. Ma lei prima diceva dei colori di Botticelli, ma il fatto che Botticelli abbia imparato dal suo maestro questa tecnica e l'abbia elaborata, mentre invece noi impariamo, cioè nel senso, come le diceva, questi elementi tecnici sono insiti nell'apparecchio. Nella macchina, sono migrati. Ma questa differenza è il fatto che Botticelli abbia preso, per esempio, questa tecnica in maniera esperienziale, cioè nel senso che lui l'ha veramente percepita. E l'ha fatta sua, dice. Esatto, e noi invece prendiamo automaticamente questa... No, non è così. C'è uno spazio per l'innovazione, per la creatività, diciamo, individuale anche nel mondo della fotografia, e ci mancherebbe altro. L'occhio allenato è in grado di distinguere una foto di Man Ray da una foto di Berengo Gardin. Un qualunque spettatore cinematografico è in grado di distinguere un film di Kubrick da uno dei fratelli Vanzina. Vabbè, lì basta pensare ai soggetti, no? Senza nessun disprezzo per i fratelli Vanzina, che sono il grande cinema popolare. Un film di Rossellini da uno di Antonioni, un film di Visconti da uno di Fellini, un film di Bergman, adesso so. Cioè, è chiaro che c'è questa possibilità, non è che non sia più. Semplicemente, l'epoca delle immagini che Flusser chiama tecniche, cioè meccanizzate, automatiche, ha obiettivamente spostato gran parte di quella che lui chiama l'immaginazione, cioè la facoltà di pensare pure le immagini tradizionali, dalla mano dell'artigiano o dell'artista, non cambia, adesso non diciamo l'arte, non pensiamoci neppure, di chi realizza immagini, la data dalla mano dell'artigiano a un certo apparato tecnico, la macchina fotografica o la macchina da presa. Allora, quando io dico questo modo di pensare è incompatibile con la concezione dell'immagine creata dal genio, l'immagine non è creata dal genio, l'immagine è creata. Il processo di creazione di immagini è un processo sociale, tanto ai tempi della pittura quanto ai tempi della fotografia. Semplicemente che cosa cambia? Cambia gran parte del processo, dei processi tecnici tradizionali, ma che dovevano essere scoperti di volta in volta, ogni volta dal singolo, diciamo, pittore, dice Flusser, migra dalla mente o dal controllo cosciente del pittore a dentro la macchina. Questo che cosa porta? Siccome l'immaginario non è una quantità di cose già data e già fissata, è un'attività linguistica, quindi è potenzialmente inesauribile. Questo vuol dire che all'epoca della fotografia e dell'immagine in movimento ci siamo inventati dei modi nuovi di immaginario, certo, da aggiungere, l'immaginario di un regista cinematografico è diverso da quello di un pittore. Però ciò non toglie che in qualche modo il modo di rapportarsi del pittore al mondo delle immagini è diverso da quello del fotografo o del regista cinematografico. Perché diciamo, molte delle funzioni tradizionali della cosiddetta, diciamo, immaginazione sono, diciamo, come dire, migrate, si sono oggettivate, si sono incarnate dentro un apparato, dentro un oggetto, che è l'oggetto, che è diciamo, l'insieme di tecniche usate. Nel caso, facciamo l'esempio del fotografo perché è il più facile, il fotografo è quello più. Nel caso del cinema è molto più complesso, perché c'è una macchina presa, poi c'è una pellicola, poi c'è sono tecniche di montaggio, sono tante le macchine che producono un film, mentre è sostanzialmente una o due le macchine che producono una foto, cioè all'epoca diciamo, prima c'era la macchina fotografica e diciamo il processo di sviluppo e di stampa, adesso c'è solo più la macchina digitale, con l'immagine digitale la stampa è veramente soltanto un accessorio. Quindi attenzione, certamente ci può essere un discorso di tipo, come dire, nostalgico, diciamo, una nostalgia che il Flusser non è che è proprio nostalgico del vecchio mondo, io non sono nostalgico del vecchio mondo, però cerco di capire qual è il vero cambiamento, in che cosa le cose sono cambiate davvero. Non abbiamo fatto pausa perché siamo arrivati tutti così tardi che tiriamoci in fondo. Arrivederci. Allora, le immagini non possono più essere prodotte in questo modo. La scienza moderna, a partire da Cartesio, si è posta a distanza dall'oggettivo e dall'invenzione della fotografia, ha approntato degli apparati finalizzati a fissare e codificare ciò che si vede. Se chiamiamo immaginazione il gesto complesso del produrre immagini descritto in precedenza, allora si deve dire che la scienza e la tecnica moderna, al fine di perfezionarla, hanno spostato l'immaginazione umana negli apparati. Da allora nessun uomo è più in grado di entrare in concorrenza con gli apparati e la questione è ancora più intricata. Ogni qualvolta osserviamo un'immagine a Lascaux, come a Firenze, noi assumiamo il punto di vista degli apparati, perché si impregnano complessivamente la nostra immagine sul mondo, della rotazione del mondo. Di conseguenza noi riceviamo, ovvero decifriamo le vecchie immagini nel contesto dell'immagine moderna del mondo, apparaticamente. Apparaticamente. Poiché ci è preclusa la fuga dal diluvio di immagini, tornando semplicemente alle vecchie immagini, possiamo tentare la fuga in avanti verso le nuove. La spaventosità di questo diluvio è radicata in tre momenti. Lui dice tre momenti. Certo che lui è critico, credo giustamente, verso questo che chiama il diluvio delle immagini, ma non tanto perché siano prodotte più meccanicamente di altre. Vediamo un po' che cosa dice. La spaventosità di questo diluvio è legata in tre momenti. Primo, esse, queste immagini, vengono prodotte in un luogo inaccessibile ai loro destinatari, distrutti televisivi, a Cologno Monzese o a Saxarubra a Roma. Nessuno di noi ci può andare lì, ogni tanto qualcuno di noi ci va, ma anche quando ci va. Io ho fatto un programma televisivo, ma era difficile ovviamente influire anche se stavi lì, guardare quello che ho partecipato a un programma televisivo. Però. Allora, esse vengono prodotte in un luogo inaccessibile ai loro destinatari. Secondo, esse omologano ciò che vedono tutti i destinatari, cioè fanno vedere a tutti la stessa cosa. E così facendo li rendono ciechi gli uni nei confronti degli altri, perché io guardo queste immagini e non guardo più gli esseri, non posso obiettivamente guardare gli esseri che come me stanno guardando le stesse immagini, perché ognuno se le guarda a casa sua. Il cinema è diverso, perché il cinema tradizionale, per vedere la stessa immagine, devi recare nello stesso posto, quindi devi fare una operazione che ha comunque un margine di socialità, mentre nella fruizione di tipo, diciamo, televisivo o nella fruizione televisiva del cinema, ognuno sta a casa sua e guarda, e tutti guardano la stessa immagine. Allora, secondo, esse omologano ciò che vedono tutti i destinatari, così facendo li rendono ciechi gli uni nei confronti degli altri. Infine, esse, immagini, appaiono come più reali di tutte le altre informazioni che riceviamo attraverso altri media, inclusi i nostri stessi sensi. Esse ci appaiono le cose che hanno maggiore garanzia di realtà. Questo vale soprattutto per la televisione, voi sapete benissimo che ormai se voi vedete una cosa con i vostri occhi, essa è ha uno stigma, ha una impronta di avvenimento troppo privato, troppo singolo. Se l'ho vista io con i miei occhi vuol dire vabbè, una roba che riguarda me e pochi altri. Mentre se l'ho vista in televisione, automaticamente essa acquista una rilevanza. Se stava in televisione, tutto ciò che sta in televisione automaticamente acquista, no, una importanza e quindi, diciamo, costituisce la vera realtà. La vera realtà è quella che sta in queste immagini del. Ma quindi secondo lei la tendenza è quella del fatto che se tutte le persone vedono uno stesso avvenimento riprodotto nella stessa maniera, la tendenza sarebbe quella di avere tutti quanti la stessa sensazione guardando la stessa cosa? La sensazione forse però... c'è il range di impressioni che tu hai si unifica fortemente, ma è così, certo che è pericolosa, è sul cioè, ovunque, in tutti i paesi del mondo, se la vogliamo dire fuori dai denti, è la televisione che ha ucciso quel po' di democrazia che noi ancora avevamo, prima di Berlusconi, non a caso che Berlusconi, dico qua in Italia, ma anche in tutti gli altri paesi dell'Occidente, in questo l'America e gli Stati Uniti non sono diversi da noi, è la televisione, perché la democrazia, che comunque non è la cosa tutto sommato, come dire, principale, o che perlomeno non coincide con la democrazia rappresentativa, non vuol dire votare semplicemente, ma diciamo il fatto che il corpo collettivo politico di tutti i, come dire, cittadini acquisti il controllo sui processi di formazione delle, come dire, decisioni, questo è la democrazia. La democrazia si basa su di un presupposto fondamentale, che cioè che ci siano opinioni differenti, che ci sia un dibattito, che ci sia una lite anche, che ci sia una discussione. Da questa discussione, da questo dibattito, da questa differenza all'interno del corpo sociale emergerà una, diciamo, decisione, con i metodi i più vari, votando, non votando, all'unanimità, convincendoci gli uni con gli altri, ma ci deve essere questa differenza all'inizio, perché se no non c'è. Se la come dire, politica nel senso più alto, più nobile del termine, è scelta. Se io vuol dire che devo scegliere, che posso scegliere tra due, tre modi diversi di fare le cose, se ci sono due, tre modi diversi di fare le cose, questa differenza avrà delle ripercussioni all'interno del corpo che deve decidere, quindi ci sarà un modo diverso di vedere le cose fra le singole persone, cioè la caratteristica fondamentale degli esseri umani sarà la differenza. Questo modo, questo apparato che descrive Flusser, che è quello televisivo, insomma, l'idea che ci sia un centro che produce delle immagini e tutti le guardano nello stesso momento o in tempo reale e tutti sono convinti della veridicità o della realtà o dell'importanza di queste immagini, obiettivamente crea